41 bis che è stato applicato ad aprile, in realtà si fonda, perché questo vuole la legge, la ratio legis del 41 bis, proprio sul fatto di impedire la comunicazione tra un detenuto con una posizione apicale all'interno dell'associazione, per cui ristretto in carcere, e eventuali sodali all'esterno, per cui la possibilità della decisione del processo torinese fa sì che sussista il presupposto di un'associazione, e pertanto la possibilità di porre un soggetto come Alfredo Cospito, stato ritenuto comunque con un ruolo qualificato all'interno di questa associazione, come un soggetto pericoloso che avrebbe potuto fornire indicazioni ai sodali all'esterno. E sodali all'esterno che a loro volta sono stati ritenuti effettivamente ricorrenti in questa circostanza, in virtù di un documento del 2006 che individuava in almeno 8 persone i componenti di questa FAI. Stiamo parlando di un documento che sembra una verbalizzazione di un incontro dove si svolge a Paperopoli, a cui partecipano qui, qua, Paperina e Nonna Papera, ma così questi sono i nomignoli tutti utilizzati. Sembra effettivamente uno scritto che rappresentasse una butaggia e nient'altro che una delle tante allegorie anarchiche che nel corso dei decenni sono state scritte magari anche da una persona sola. Invece i giudici ritengono che quella fosse una vera e propria verbalizzazione compiuta in un incontro tra 8 persone, e pertanto se 8 persone hanno partecipato, almeno 8 erano partecipi a questo fenomeno associativo FAI. Siccome all'esito del giudizio torinese 3 sono stati condannati per la FAI, ce ne sarebbero almeno altri 5 teoricamente all'esterno, in attesa di ricevere le indicazioni del loro leader, cioè mutuando un po' una concezione magari più che altro marxista o di criminalità organizzata che non anarchica, però comunque di questo leader, di questo capo che sarebbe Alfredo Cospito, che in carcere avrebbe dato indicazioni. Diversamente dal nostro punto di vista non è questo il fatto: Alfredo Cospito continuava dal carcere a dire quello che pensava, e che in realtà quello che pensa Alfredo Cospito viene considerato pericoloso ed è forse meglio metterlo a tacere. Ma stiamo parlando in questo caso di reati che sono reati d'opinione, lì dove abbiamo un articolo 21 della Costituzione che in realtà dice che chiunque può pensare e dire quello che vuole, per cui stiamo parlando di un terreno assolutamente scivoloso, diciamo che dovrebbe essere trattato veramente un grano salis con attenzione, con i guanti bianchi. Invece secondo noi questo decreto ministeriale ha ritenuto di agire invece in maniera poco attenta sia alle garanzie costituzionali che poco attenta alla corretta applicazione di quelle che sono le ragioni per cui è stato introdotto il 41 bis in Italia, che sappiamo essere quello del contrasto al fenomeno stragista mafioso. Adesso Alfredo è in sciopero della fame dal 20 ottobre. Come sta Alfredo? Alfredo fortunatamente sta ancora bene, perché è un uomo di buona costituzione, diciamo così, per cui è molto stanco, ha perso tanti chili, è dimagrito di circa 20 chili e certamente sta iniziando ad accusare, per cui non esce neanche più, non gode neanche più, non fruisce neanche più delle 2 ore d'aria che sono consentite in 41 bis, ma stiamo parlando comunque ore d'aria in un cubicolo di cemento in cui i muri sono alti metri, i muri perimetrali, c'è cioè una rete metallica che offusca anche la visione del cielo, per cui certamente non è il posto migliore dove poter fruire comunque uno spazio quantomeno di libertà, però non riesce neanche più effettivamente ad uscire dalla cella, però è assolutamente determinato a proseguire questa sua battaglia, anche perché ritiene che una prospettiva o di ergastolo stativo o qualora venisse riconosciuto il 311 nel giudizio di rinvio, comunque di 30 anni di carcere al 41 bis, non sono una vita ma sono una lenta agonia che conduce alla morte, senza alcuna prospettiva di poter uscire, visto che non si può cedere alle misure alternative. Dal suo punto di vista, sostanzialmente, se questa è la prospettiva, tanto vale concluderla prima in un gesto estremo, sì, che di rabbia, che di protesta, e che con l'unico strumento che gli rimane, che è il suo corpo. Il